giorno nell'acqua. Se c'hai la pressione che è adeguata, basta un attimo, capito? Un attimo con l'altro rubinetto. Mi sa che è da mezzo tre quarti. L'attacco della lavatrice è tre quarti e l'attacco del rubinetto è da mezzo, quindi va bene. Quindi avrò la pressione, non l'ho toccata, quando lavo la macchina devo abbassare anche la pressione del rubinetto, sennò campa rubroso. Sì, va bene. E poi te lo faccio vedere, lo facciamo quello che vuoi fare. Ci aggiorniamo domani, ciao, riprende e fai girare. Va bene, quello che non ci sono problemi, si può fare tranquillamente. Riprende già. Ho preso fra una lavatrice a Portobello, 100 euro, nuova, ancora col nylon. Della Whirlpool. Lavora la roba di Filippo. Capito? Non me lo faceva a lavorare. La carbonazione non potevo farlo, qua lo posso fare, ne metto due lavatrici. Una per noi e una per lui. Comunque già si può fare, è fattibile quel discorso, capito? Lo puoi fare tranquillamente, non ci sono problemi. Tanto lo scarico è attaccato all'altra, si mette il gomito anche lì e si fa scaricare tutte e due nello stesso posto. Va bene, allora poi già ne parliamo domani. Ciao. Vai Gianni. Ciao Claudio, ci siamo, magari se puoi entrare dopo, non lo so. Ce l'ho domani, dai. Avanti, Franco. Se bene, a testa, se puoi andare. No, negativo già, sono andato. Sono tutta la mattina qua e stavo finendo delle cosette. Poi ho perso un paio d'ore sopra quello smitter. Che facevo prima a ordinarlo, guarda. Sì, vabbè. Cosa vuoi? No, ne ho tolto il pezzo da dentro, da tu e ce l'ho buttato dentro su questo, ma già va bene lo stesso. Ma è incasso? È incasso, sì. Venerdì era libera, quindi... Settimana possiamo andare. Va bene, non problema. Adesso ha messo un mare mosso. Adesso ci facciamo magari dalle 8, ci facciamo sì dalle 11 e mezza, mezzanotte. Cava, andare bene meda. Facciamo il lungo, che lì si fa scappare quell'ora. Vedrai che qualche cosa andiamo fuori. Capiremo. Se non è che abbiamo messo il palato, perché a volte ci mettono il palato tutti di nulla. Sono abbastanza, ci stanno mettendo il palato tutti qua. E mai fatti buttare i palamenti, non si prende niente per quello, capito? Una volta io ti ho fatto tutto chicca e mi ho fatto pescare la mia volta. A volte ti metti a calare roba del genere e ci trovi il palamento davanti, capito? Quindi diciamo che è un mezzo casino, quando c'è il palamento non prendi niente. Ma non so che siamo arrivati a mettere quell'ora di barracuda da una parte all'altra del muro. Perché questo sto usando io, non spinge. Vabbè, guarda, questo sto usando il microfono normale, quello da palmo. Però cioè, posso usare anche l'altro che è collegato. Va. Lo stesso il magno che mette in macchina io, quello lì c'ha il microfono normale, spinge forte. Questo è il microfono normale e questo è l'MB4. C'è solo. Che la faccia più forte la va. Questo? Il mio è il Top Gamma, non so se tu ce l'ha. Si chiama Top Gamma. Tu puoi metterlo in tunnel, se metti il Top Gamma con un processore che ti aumenta la va. Sì, c'è anche questo già, c'è anche questo. Solo che io lo tengo abbassato perché mi sto. Cioè il parlo ascolta, se no mi posso usare. Ma è anche troppo forte la radio 2. Forte, va bene. E a 2 ce l'ho. No, ce l'ho a metà. Abbassa la pelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso va meglio, forse perché noi siamo vicini e era rimbombante. Quando siamo vicini sì, rimbomba. Qua sono contento che ho sistemato quel 48. Sistemato. Allora funziona. Allora mi rubo sendina. Non è male che c'è l'ufficiato sul ricambio. Adesso me lo prendo. Adesso c'è la colonia e il corso. Questo qua lo vendo subito. Questo modificato con la scheda a code e tutto. Se lo voglio dare 100 euro me lo prendo al volo. Io l'ho venduto di più, l'ho venduto a 3,50, il mio l'ho pagato di più anche. Ma cosa, chi lo vuole questo, 100 euro se lo porta via, me la fate in onda. Però li devi mettere la coda dell'Eco, perché i camioni si lo cercano così, non ne vogliono con l'Eco spettacolo. Ma questo c'ha anche la cosa, c'ha l'effetto ricotter, solo io gliel'ho chiuso là dentro. Ma la posso sempre aprire, non ci vuole niente, capito? Vabbè, infatti, no, ma dico, loro lo cercano con l'effetto elicottero, te lo valutano di più se ha l'effetto elicottero. Sì, vabbè. Ma ci vuole, ce l'ha, però io l'ho chiusa, ma non mi piace la verità si dica, mi piace più la radio normale, diciamo, là, senza ecco. E invece la mia prima gamba invece con l'ecco. Sì, vabbè. Gaba, gaba. Dietro Gianni Doppio Russi, ascolti questa piccola modulazione, cambio, fione, cambio. Sì, è vero, è solo che dovresti mettere rimanere all'effetto di costo. Che regata, adesso l'ho abbassato, così c'è un po' d'ecco, lascio così, non mi piace già. Ma quello lì è per divertirti su 45, capito? Non è che si usa qua i discorsi. Anche io l'ho abbassato quando entravo sul 48, ecco, lo toglievo. E almeno così non dicevano. Perché è fastidioso, lo sai perché? Perché se c'è le cuffie dà fastidio, tutto lì. C'è una cosa che puoi sempre toglierlo. Ecco, il mio c'aveva la manopola esterna, lo toglievo, girava verso sinistra, aumentava, verso destra si chiudeva. Ho capito, sì. No, questa qua ce l'ha da dentro la regolazione, non ho capito. Gliel'ho chiusa io, perché praticamente regolava tutto dalla manopola, dall'RFG regola l'ecco, dal Mickey G ti dà la più potenza del radio, e poi c'ha un altro, quel filtro del robot, e quello ti dà il watt. E poi la più quella che c'è sulla 2020 ed è completa. No, me la tengo nel mio. Il mio lo lascio stare com'è, che va bene, tanto ce l'ho anche io il 45 nel 68, capito? 68 è nuovo, è tenuto bene questo qua. Ma tu l'avevi lasciato in macchina, potevi lasciartelo da. Vabbè già, va. Devo stare, metti, buoni, non mi piace più la macchina, rotto le balle, ti fermo, te rompo le balle. Io l'altra volta sono andato al vero a prendere l'ufficio all'aeroporto verso le 11:04, ho attaccato a vedere se c'era gente, non vedo un cazzo. Ma infatti non c'è nessuno. Ecco, magari sono entrati dopo cena, proviamo. Sono partito alle 10:20 da Sassa, 10:20, 10:30. Praticamente ho fatto tutta la strada, non appena attaccata, non vedo nessuno. Aspetta un attimo. Cosa? Aspetta un attimo, vado in bagno. Ma ciao, vi stavo facendo la pipì addosso. Franco, sta cambiando la colonia. Lo sapevo. Allora, Gianni, come va? Diciamo adesso meglio, ma ieri mi sono alzato veloce per muovere più il ginocchio, ha giubilato un freddo con l'aria condizionata. No, ma va proprio il ginocchio, stavo zoppicando tutto il giorno, ieri e oggi stamattina, poi ho preso questo artiglio del diavolo che mi hanno consigliato dei giocatori di pallone. La verità me l'ha fatto passare, cazzo. Non va, c'è qualche distorsione, boh, non lo so, ma che cosa era, perché quando massaggiò faceva tricchitratra. Sì, lo stesso pure facevo anch'io, ma da quando ho fatto il vaccino, mi vengono questi dolori articolari, muscolari, capito? Io adesso quando la notte dormo, dopo con la finestra aperta qui, tutta l'umidità che c'è qua su, questa roba qui, e quel venticello, tutto è qua, manco te ne accorgi, capito? E devo andare, ti alzi tutto messo male, ti alzi. Ma sento una voce sotto forte. Sì, Simona, che ha dolore anche lei, sta quanta. Sta usando il coso. Il refrigeratore sta usando. Perché c'è caldo in camera. Fa poco, fa male, c'è il refrigeratore che l'aria condizionata. E ti accevole, ma qui alla fine ti fa male alle ossa. A me non mi aveva fatto nulla l'aria condizionata, invece questa volta mi ha bizzicato. Una volta mi aveva fatto lo stesso... la sinusite mi ha fatto bizzicare. Non mi faceva mai tutta una parte della faccia. È un casino, questo caso capito. Di colpo, che c'è, che abbiamo, c'è il caso dentro casa, apri le finestre la notte, eccetera, eccetera, c'è, siccome c'è tutta questa umidità strana, quindi ti entra nelle ossa, ma così manco di quando ti lasci si sente tutto dolore. Io ho proprio i dolori dalla parte dove ho fatto il vaccino. Hai capito? Ti prende la scapola fino a tutto il braccio, mi prende. A volte mi fanno male le ginocchia, il coso. Allora vado, metti una tachipirina, come ho fatto ieri, ho preso una tachipirina, perché tachipirina non sto pigliando. Quest'anno quando ho fatto il secondo vaccino è tutto inchiappettato a me. Il bello lo sai cosa c'è, che magari la sera c'è caldo, anche la notte, poi la mattina presto entra l'umidità. Io faccio mi alzo sempre a chiudere la finestra la mattina presto perché c'ho freddo. Anche io mi alzo, che non tutto, capito, per quel motivo lì. Solo controllami perché sono troppo debole. Adesso aspetta un attimo che li metto nel dito del dito, che controllo la saturazione del sangue. Sta benissimo, a voi ci mancherebbe. È l'ultima radio e anche il microfono va bene, con le 600 voglia. Già pompa. Va bene. Ci sentiamo alle buona serata. Altrettanto ci sentiamo, buona serata con tutto. Simona, a dolori, tutta quanta dolori, c'è dei piedi, mi ha detto, mi ci riesco a respirare, per forza ho detto, c'è l'argeggio acceso, non ho cominciato un altro, quello che ci mette il ghiaccio dietro, cioè ci mette l'acqua e il ghiaccio, capito? Per avere fresco. Ciao, alla prossima, ci sentiamo Gianni, ci ha dato un saluto, ci sto. Attenzione canale 10, cambio.